Sì, si sente il click. Mi senti? Però sta prendendo l'audio dal microfono del computer. L'ho abbassato, ho messo direttamente al jack del coso. No, quello che voglio dire è che sta prendendo l'audio dal computer. E mentre la cuffia, se tolse la voce mia, si ricorda, capito? Accendi le casse. È collegato alla... come si dice? Alla... alla lettura multitraccia. Ho preso qualcos'altro perché non sento più. No. Ma mi senti a me? No, però non sei, ma tu la chitarra non l'hai collegata al computer. No, al multitraccia l'ho collegata. Che c'entra il multitraccia? E là l'ho collegata perché tu mi senti la chitarra? Lo so, ma mo sono collegato così. Tu mi senti ancora? Sì, sì, sì, sì. E la cuffia è sopra, capo. No, questa di qui, no, bene. Va bene, va bene. Non ci va questo qua perché non hai il... Ah, che devo comunque, che cuffia devo prenderti? Quella grossa, quella di madre, vabbè, no, vabbè, lascia stare allora. Prego. Sì, bro, anche se abbasso, si dovrebbe sentire uguale perché... Allora c'è qualcosa che non va. All'esterno non devi trasmettere niente all'esterno, devi mettere una cuffia e sentire solo in cuffia, se vuoi suonare così. Non sì, sì. Pure, però ti devi mettere una cuffia. La cuffia mo c'è il coso grosso, c'è il jack, l'entrata grossa. Mi faccio prendere allora la chitarra acustica. Puoi prendere una chitarra acustica e ti metti la cuffia, però all'esterno non deve uscire niente, devi sentire solo in cuffia. Sì, sì, sì. Capito? Perché stai sempre qua? Ma io non ti sento a te. A te non ti sento. E non sto suonando. Ah, ok. Adesso io suono. Così che... Non ti sento, bro. L'abbiamo fatto, però lo so come. Non lo so perché mi sta dando questi problemi. Tu ora mi senti, ora senti la mia chitarra. Sì, sì, ma tu stai sentendo la mia voce pure? Non dovresti... Io ne ho... Ma sicuro o è la senti la voce del telefonino? Che? Non dovresti sentirla perché... Perché io ho hai visto che sento la tua voce, Diego? Ah, ho capito. Sì, no, questo l'ho capito, ma è strano così. Mo mia sorella è andata a prendere una cuffia sopra, perché io non ce l'avevo qua. Devi fare in modo che all'esterno non esca niente, solo in cuffia. Capito? Non so, attacca la cuffia, non lo so come è mo a casa tua. Mo io sono sotto. Allora aspetta, facciamo, ti chiamo fra 3 minuti, in caso prendo la chitarra acustica. Se non dovesse trovare la cuffia, la metto al computer direttamente. Perché non so se c'è l'attacco grosso, mi sa che c'è l'attacco piccolo. La cuffia che ho io, quell'altra. Ok. Scusami, però magari la prossima volta. Thank you.